Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo dell'export italiano, un segnale positivo soprattutto anno su anno a gennaio, non così positivo invece mese su mese. Purtroppo il dato su dicembre segna una frenata delle esportazioni, però vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. È il primo segno positivo nell'export anno su anno dal 2008 e quindi sicuramente meglio del gennaio 2009 e il gennaio 2010. Parleremo anche di export perché, come già ieri vi abbiamo annunciato, è diventata legge quella normativa sul Made in Italy, è passata, è stata approvata dalle Camere la normativa sul Made in Italy, quella che proibisce di chiamare un bene Made in Italy nel settore tessile, abbigliamento, calzature e arredo se almeno due fasi della produzione non sono fatte qui, con dei paradossi che noi abbiamo messo in evidenza la settimana scorsa anche con molte critiche da parte vostra. Il paradosso è che uno potrebbe fare solo le ultime due fasi qui e produrre bene ed essere un produttore cinese o indiano o tedesco e fare l'ultima fase qui, le ultime due fasi qui e mettere il marchio Made in Italy, oppure un produttore italiano perché ha fatto tre fasi fuori anche se la testa dell'azienda è in Italia non potrebbe scrivere Made in Italy. A noi continua a sembrare un paradosso e una ingessatura inutile. Sappiamo benissimo che è molto ben vista dai piccoli imprenditori, dagli artigiani, dalle piccole imprese anche di Confindustria, però attenzione, per la tutela dei piccoli non si può così, in qualche modo limitare l'intero sistema. So che è un tema delicatissimo, molti di voi dicono no, è giusto, se produci fuori non puoi scrivere Made in Italy. Vabbè, a mio avviso è un modo un po' miope, un po' piccolo di vedere la cosa, appunto, ma insomma, resta un giudizio. E la borsa, meno 0,6% Milano e meno 0,7% Parigi, meno 0,3% Francoforte, meno invariata Londra e invariata anche l'America. Parleremo quindi di export, di Made in Italy, dei conti dell'Enel. La nostra Valentina Furlanetto infatti a Londra, dove l'Enel ha presentato agli analisti i conti per il 2009, e poi torneremo sulla vicenda Unicredit, Banca Unica, il rinvio, le tensioni in consiglio, Profumo che ieri il numero uno della banca ha dovuto dire non si è mai parlato delle mie dimissioni, non ho neanche mai minacciate, e allo stesso tempo, visto che Unicredit è uscita dalle generali, parleremo anche della partita generali Mediobanca, ossia lo scenario che si apre a inizio aprile. Tra il 5 e il 6 aprile vi sarà un nuovo consiglio delle generali e per via delle partecipazioni che le generali hanno e dei soci delle generali, quello è lo snodo fondamentale nel prossimo risico finanziario, bancario e assicurativo. 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre, prima di tutto e rapidamente, le notizie in breve. Partiamo come sempre dal petrolio, aperto in calo, $82,39 il barile. Purtroppo invece è tornata a correre la benzina. AGIP e Shell l'hanno riportata sopra €1,4 al litro. E poi l'economia internazionale. In Grecia la disoccupazione schizza ai massimi, era prevedibile dal 2005, e poi c'è un balletto abbastanza così imbarazzante, se il governo greco non si offende, proprio del governo greco. Perché? Perché prima di tutto il ministro delle finanze oggi nega che vi sia mai stata una richiesta greca di aiuti al Fondo Monetario Internazionale, ha detto è uno scherzo, riferito alle indiscrezioni uscite sulle agenzie, per esempio lo scriveva oggi l'agenzia Dow Jones. Poi però in mattinata il primo ministro greco Papandreou ha detto arriverà un'assistenza dell'Unione Europea oppure dovremo rivolgerci al Fondo Monetario Internazionale. Insomma, non si capisce niente, forse è il caso che Papandreou e il suo ministro delle finanze si parlino. E poi l'allarme del premier greco Papandreou, che dice attenzione, gli speculatori internazionali possono annullare tutti gli sforzi del nostro risanamento, vogliamo la possibilità di accedere ai prestiti europei a un tasso normale come gli altri paesi della zona euro. L'Italia, diciamo dei conti Enel, ne parliamo approfonditamente, c'è un'intervista che abbiamo realizzato con il numero uno Fulvio Conti. Comunque, l'utile va a 5 miliardi e 390 milioni di euro, il dividendo è a 25 centesimi di euro, l'utile netto del gruppo aumenta del 2%, il dividendo appunto è da 25 centesimi, di cui 10 centesimi già corrisposti di quale acconto a fine novembre. Il debito netto per l'anno in corso di Enel 2010 va a 45 miliardi di euro. E poi i conti di Generali, in taggia diffusi ieri, dicevamo appunto l'utile delle Generali va a 1 miliardo e 300 milioni di euro, in crescita del 52% nel 2009 rispetto al 2008. Il dividendo distribuito agli azionisti sarà di 35 centesimi di euro per azione, è ben più alto di quello dell'anno prima che era di 15 centesimi di euro per azione, però nessun bonus, questa a noi sembra una buona notizia, per i manager delle Generali. Calano anche i compensi del presidente Bernheim e degli amministratori delegati Giovanni Perissinotto e Sergio Balbinotto, nel senso che il presidente ha guadagnato 2 milioni e 720 mila euro in calo rispetto ai 3 milioni e 200 mila dell'anno prima, e i due amministratori delegati hanno guadagnato rispettivamente per il Senato 1 milione e 820 mila euro, Balbinò 1 milione e 980 mila euro, in calo rispetto ai 2 milioni e 500 mila euro di guadagno dell'anno prima. Poi un attacco, ma ne parleremo più avanti, di oggi del Financial Times. Alessandro Profumo dice dovrebbe ripensare e dovrebbe anche valutare la possibilità di dimettersi. Il crollo del 58% dell'utile netto, pur se migliore rispetto alle previsioni, non cambia le opache prospettive di redditività della banca. Così oggi il Financial Times. Oggi riunione del patrosindacato e consiglio di amministrazione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Marchetti, Pier Gaetano Marchetti, confermato presidente. C'erano molte voci di un possibile cambio nella presidenza. E nel consiglio di amministrazione della Rizzoli Quotidiani entrano Giovanni Bazzoli, Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Cesare Geronzi, Antonello Pericone, Giampiero Pesenti, Marco Tronchetti Provera. Il ministro Tremonti ieri in audizione alla Camera, ve l'avevamo promesso, poi l'audizione è iniziata più tardi, allora ascoltiamo alcuni passaggi, soprattutto la risposta a chi critica il governo per immobilismo. Tremonti ha detto: beh, è eccessivo dire che abbiamo fatto tutto male. In questi 22 mesi di governo Berlusconi, in questa aula sono stati discussi 2 leggi finanziarie e 12 specifici provvedimenti economici. Si può dire che non è stato fatto abbastanza, ma davvero non si può dire che non è stato fatto niente. E dire che tutto è stato fatto male, come mi sembra è stato detto, mi pare oggettivamente eccessivo, politicamente massimalista e statisticamente fallace. In 22 mesi, almeno una cosa giusta, magari per sbaglio, ma almeno una cosa giusta l'avremmo pur fatta. In realtà abbiamo fatto tanto provvedimenti congiunturali quanto provvedimenti strutturali. Definire l'essenziale è responsabilità della politica. E prima di agire bisogna capire, e nell'agire bisogna sapere che non esistono formule magiche assolute. E a me sembra che troppo spesso si rappresentino formule che sembrano derivate dalla idraulica o dalla chimica o dall'alchimia, muovo X di qua, trovo Y di là. Siamo un grande paese, ma siamo in una situazione complessa e critica. Siamo un paese che non si può governare con il piccolo chimico. Così, almeno questi alcuni dei passaggi principali dell'intervento del ministro Monti ieri alla Camera, che poi, come avete letto forse anche su molti giornali oggi, ha detto stiamo lavorando soprattutto sulla riforma fiscale, c'è uno studio tecnico avviato Non possiamo continuare con una macchina fiscale rattoppata. E invece critico il segretario del PD Pierluigi Bersani, e dice: serve più coraggio, più responsabilità, un piano anticrisi fatto di alcuni interventi immediati, di riforme necessarie. Se fosse così noi saremmo pronti al confronto. E poi Bersani ha attaccato: avete fatto, riferito al governo, 4-5 cose grosse, il mega condono per il rientro dei capitali, 2-3 miliardi per l'Italia, l'aumento di 12 miliardi della spesa corrente e 8 miliardi in meno per la scuola. Voi di sostanziale avete fatto una cosa: avete preso soldi agli investimenti delle regioni del sud, li avete messi sugli ammortizzatori sulla cassa integrazione, lasciando scoperte grandissime fasce di precari, lavoratori senza stipendio, tipo Euteglia, rifiutandovi adesso di prolungare e di potenziare questi strumenti. Voi avete fatto 4-5 cose grosse. Uno, il mega condono per gli evasori e esportatori di capitali. Due, un paio o 3 miliardi per Alitalia. Tre, avete incassato 20 miliardi di IVA in meno in 2 anni. 4. Avete aumentato la spesa corrente per beni e servizi della pubblica amministrazione di 12 miliardi in 2 anni. 5. Avete tagliato 8 miliardi alla scuola nei 3 anni, col risultato, io spero che vi sia arrivata notizia sui banchi del governo, che le famiglie italiane per la scuola dell'obbligo stanno contribuendo agli strumenti didattici, alla carta igienica e alla supplenza degli insegnanti. Così Pierluigi Bersani, leader del PD, per quello che riguarda l'invito che è arrivato anche oggi dalla Presidente Confindustria Marcegaglia, a margine dell'Assemblea di Confitarma, ha detto: attenzione, sugli incentivi un piccolo aiuto, quindi il decreto che dovrebbe essere varato domani, ma è comunque un supporto, mentre sul fisco ha detto: insomma, occorre rivedere completamente l'assetto fiscale del paese. Rivedere completamente l'assetto del fisco italiano, che si è sedimentato in tanti decenni, richiede tempo. Io credo che però sia necessario dare alcune risposte più veloci ai lavoratori e alle imprese, perché, come dicevamo prima, il 2010 sarà ancora un anno complesso, ci sono sofferenze nell'occupazione, ci sono molte aziende che fanno fatica ad andare avanti, quindi noi comprendiamo, come dire, che per avere un piano complessivo ci voglia tempo, forse però qualche segnale più veloce diventa necessario. E poi la richiesta che arriva dai costruttori, un grido di allarme dell'ANCE: le imprese chiudono, centinaia di imprese stanno chiudendo, il mercato ristagna, le amministrazioni pubbliche o locali anche non pagano, basta con l'immobilismo. L'ha chiesto il presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti: servono misure urgenti per il settore. Queste le nostre notizie in breve. Iniziamo col primo tema di oggi, mi riferisco chiaramente ai dati sulle esportazioni. Dicevamo appunto sull'export, c'è stato un primo segnale positivo a gennaio, su gennaio 2009, un segnale positivo dell'1%, che è poca roba, sono d'accordo, però è il massimo dal 2008, non capitava dal 2008. Purtroppo, come dicevamo, c'è una variazione negativa gennaio su dicembre, -1,6%. Per quanto riguarda il dato congiunturale, questo non è bello. Il saldo complessivo comunque resta negativo per 3 miliardi e 3. Molto bene va il commercio fuori dall'Europa, il cosiddetto commercio extra UE, +4,7%, quindi un dato nettamente superiore alla media dell'export, però un -0,4% anche qui gennaio su dicembre. Il commento ai dati sempre della Presidente del Confindustria Emma Cegaglia, è sempre al microfono della nostra Chiara De Michele. Va sottolineato che la dinamica del commercio mondiale sta migliorando, e quindi noi seguiamo un po' questa dinamica, però con un incremento che è più basso rispetto alla ripresa del commercio mondiale, e francamente un +1%, come dire, certo è meglio di zero o meno qualche cosa, ma evidenzia che insomma i miglioramenti ci sono, ma sono ancora deboli, e quindi noi riconfermiamo che se questa è la dinamica, il Paese nel 2010 non crescerà più dell'1%, anzi anche l'1% è un pochettino già ottimistico. Così la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia. E allora parliamo del nostro export, poi parleremo anche della legge sul Made in Italy. Già messaggi vedo, 349-238-6666, arriviamo anche al Made in Italy, sapete tutte le nostre perplessità, spesso non condivise da voi, ma insomma cerchiamo di capire come sta andando e cosa si può fare per far andare meglio un settore che in questo momento rappresenta uno dei pochi elementi di crescita, visto che di consumi in crescita certo non possiamo parlare in questo paese. Lo facciamo oggi con l'amministratore delegato della SACE, dottor Alessandro Castellano, buonasera. Buonasera. Allora, la SACE, altre volte nostro ospite, comunque vale la pena ricordarlo, è al 100% controllata dal Tesoro e si occupa di gestione del credito delle imprese. Detta così sembrerebbe quasi un ruolo supplementare alla banca, in realtà voi assicurate il credito e offrite assistenza per la protezione degli investimenti delle imprese italiane all'estero, che non è, siete una forma di assicurazione nazionale delle imprese quando vanno a investire nei mercati esteri, la semplifico molto, poi lei sarà più preciso, e anche fornite, oltre che le cauzioni, le garanzie finanziarie su operazioni commerciali e finanziarie, quindi insomma, è il modo in cui l'impresa italiana quando va all'estero si cautela, visto che in questo periodo si parla molto di strumenti di protezione, ma quelli sono i CDS, si cautela rispetto a investimenti, a rischi che prende intanto su commesse, ma anche nell'andare poi nell'investire quando va in un altro paese. Primo aspetto, un commento a questi dati, anche voi nella vostra attività vedete un risveglio delle esportazioni soprattutto diciamo, fuori dall'Europa? Ma io credo che diciamo due dati debbano essere registrati. Noi facciamo e cerchiamo di fare cose semplici, cioè diamo credito nella forma delle garanzie in tutte le varie eccezioni, che sia una fideiussione, sia un'assicurazione del credito, sia protezione degli investimenti. Cerchiamo di supportare le nostre aziende che vogliono internazionalizzarsi, non solo in Italia, ma anche non solo all'estero, ma anche in Italia. Su questa base direi la cosa semplice che si può osservare dai dati è che noi pensiamo che l'effetto o il principio demografico europeo sia irriversibile almeno per il momento, e per cui dobbiamo prima riconsiderare forse l'export, in quanto nell'Europa 27 prima o poi determineremo che quello che si vende tra questi paesi non è più export, e andare naturalmente a cercare le nuove aree di crescita. Le aree nuove di crescita sono su paesi che hanno demografie o curve demografiche diverse dalla nostra. Citava lei i BRIC, io direi che bisogna cominciare a fare forse altri acronimi, perché cominciano a essere aree interessanti da un punto di vista demografico. Parliamo dell'Indonesia che ha circa 200 milioni di persone, o parliamo di molti paesi asiatici che sono vicini alla Cindia. Ci sono molte nuove operatività, Latin America con Brasile che sta facendo dei progressi sorprendenti, Messico lo stesso ed altre aree del mondo che per esempio sono mediterraneo, Africa subsahariana, che è stata un po' trascurata secondo me dalle nostre priorità. Segnale positivo della SACE, diciamo il nostro orientamento ormai è per uffici che sono India, Hong Kong, Sudafrica, Brasile, Russia, questo è il posizionamento iniziale e speriamo che questo riesca a accompagnare meglio le nostre società. Quindi lei ci ha già annunciato insomma, l'apertura anche di un vostro ufficio di assistenza, uno a Hong Kong e l'altro a Bombay, se ho ben capito, come nuove aperture chiaramente. E, voi avete complessivamente avviato 46 miliardi di euro di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo. Tra l'altro, se ho ben capito, a questo punto la copertura che voi date è quasi totale, c'è 181 paesi siamo arrivati? Noi abbiamo aumentato quest'anno come segnale chiaro di miglioramento complessivo del mondo, nonostante che alcune fragilità, alcuni rischi permangano, e abbiamo aumentato di 36 paesi, per cui siamo passati da oltre 150 paesi a oltre 180, siamo vicini ai 190 paesi dove consideriamo diciamo stabile il flusso di relazioni che possono esserci tra l'Italia e questi paesi. Andiamo sempre all'operatività, perché oltre a assicurare il credito e offrire assistenza e protezione agli investimenti, voi avete anche un ruolo abbastanza delicato. Noi sappiamo che ci sono in Italia, solo in Italia si valuta tra i 40 e i 60 miliardi di crediti che le imprese piccole, piccolissime, medie e anche grandi vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ecco, voi avete anche la capacità di smobilizzare, o avrete a breve la capacità di smobilizzare, i crediti vantati dalle aziende verso la pubblica amministrazione. Come farete? Perché è un tema delicatissimo questo per gli imprenditori. Abbiamo creato una società ad hoc, che è una società che verrà vigilata da Banca d'Italia, che sarà operativa dal mese di aprile. A questa società le imprese si potranno rivolgere per avere o ottenere lo smobilizzo dei crediti che vantano dalla pubblica amministrazione. Stiamo pensando già di attuare, abbiamo già attuato delle convenzioni con il sistema bancario, in modo da dare la possibilità alle aziende anche di rivolgersi alla loro banca di casa. E oltre a questo stiamo cercando di attuare un sistema di e-procurement, cioè un procurement che viene diciamo convenzionato con le pubbliche amministrazioni, sulla base del quale le aziende potranno scegliere le modalità di pagamento direttamente con l'azienda diciamo committente del loro lavoro. Per quello che riguarda i ritardi, vorrei però anche confermarle che l'Italia, anche nel settore privato, rimane uno dei paesi, secondo statistiche rilasciate dall'OCSE recentemente, agli ultimi posti. Cioè noi abbiamo praticamente una modalità di pagamento dei crediti che risulta essere molto lenta, anche per quello che riguarda crediti cosiddetti privati. Ecco, sì, che non vuol dire ma comune mezzo gaudio, cioè intanto lo Stato pagasse i 60 o 40 miliardi che deve alle imprese, anche perché in molti casi sono piccole imprese, sono organizzazioni anche che veramente hanno bisogno di qualche milione per andare avanti. Ultima domanda riguarda appunto l'export nella vostra ruolo di assistenza, consulenza assicurativo-finanziaria. Ora, le imprese che esportano vi conoscono bene, hanno giudizi positivi, possono anche avere giudizi critici. Io vorrei in questo caso un vostro giudizio sulle imprese che esportano, perché spesso si dice che le imprese devono adottare reti lunghe, se ne discute spesso ai convegni, se il tuo mercato di sbocco non è più la Romania, la Germania, la Francia, ma diventa la Cina, l'India, l'Indonesia, il Brasile, non ti bastano le risorse, le spalle che avevi prima, hai bisogno di maggiori mezzi, non sempre le banche le accompagnano e soprattutto spesso queste imprese sono troppo piccole. Se ne parla molto di reti lunghe, aggregazioni, gruppi di imprese così, voi le vedete poi concretamente sì o no, oppure tutti ne parlano e poi nessuno se la piglia. Ma guardi, io credo che questo diciamo sia evidente, ma la mia risposta può anche essere una risposta che le conferma che il problema che abbiamo in Italia è un problema globale. E l'evidenza di questo problema gliela menziono dandole un'indicazione abbastanza significativa. Il Presidente degli Stati Uniti la settimana scorsa ha partecipato alla conferenza della SACE americana che si è svolta a Washington e ha dichiarato di affrontare il problema delle esportazioni con un programma straordinario che abbia delle implicazioni di raddoppio nel prossimo quinquennio dell'export americano verso il resto del mondo. Per cui le diciamo strategie, reti lunghe o modalità di penetrazione di mercati culturalmente e geograficamente più lontane richiedono probabilmente anche da parte nostra un programma straordinario. Questo programma straordinario, secondo me, dovrà essere affrontato dalle imprese, dalle istituzioni come noi, dalle banche e da tutti coloro che partecipano. Insomma, concretamente il limite più forte che lei vede nell'attività delle nostre imprese, perché insomma si può anche avere una critica costruttiva, qual è? Che ne parlano ma poi non aumentano le dimensioni, non si mettono d'accordo, non si alleano, non fanno aggregazioni, qual è? Guardi, secondo me il problema diciamo maggiore che noi abbiamo è duplice. Uno è il fattore dimensionale che è noto. L'altro direi che è un fattore culturale, nel senso che dobbiamo oggi riuscire a stabilire delle strategie che portino più lontano i nostri investimenti, per cui muoverci da esportazione di investimenti. E questo direi che è un problema complesso. In una battuta mi dice i paesi che restano in cui il rischio è aumentato quanto a investimento, appunto a fare contratti, e due o tre paesi in cui il rischio è diminuito? Guardi, io credo che generalmente... A livello proprio nominale. A livello nominale, io credo che i paesi che diciamo stanno offrendo maggiori possibilità sono quelli che sono i BRIC, io metterei e lascerei la Russia, con le complessità che oggi la Russia ha. Aggiungerei paesi diciamo nell'area asiatica, Thailandia, Indonesia, Malesia, metterei sicuramente il Messico e metterei alcuni paesi dell'area subsahariana e dell'area mediterranea come paesi dove ci sono le maggiori capacità per i nostri esportatori. E tra quelli invece dove il rischio è aumentato o comunque non è calato, quando voi fate assistenza fiscale, cioè dove anche voi sapete che ci sono maggiori criticità? Ma direi che è ovvio e abbastanza intuitivo che i rischi sono aumentati negli Stati Uniti, sono aumentati in Spagna, sono aumentati in Irlanda, sono aumentati in Grecia. Cioè direi che può essere un po' controintuitivo, ma questa è la realtà di oggi. Eh sì, insomma, chi l'avrebbe mai detto un paio d'anni fa che insomma gli rischi calassero in Indonesia e aumentassero in Spagna. Comunque, con Sic Transit Gloria Mundi, diceva una volta i latini, grazie al ministro delegato del gruppo SACE Alessandro Castellano. Grazie, buongiorno. Allora, noi restiamo in tema di esportazioni, non facciamo di nuovo la puntata che tanto ha fatto arrabbiare alcuni ascoltatori, in cui palesammo tutti i nostri dubbi, e lo ripeto, per la legge sul Made in Italy, che tra l'altro deve essere approvata dall'Europa. Oggi la posizione è abbastanza netta, nel senso che l'Europa non è che abbia una legislazione come questa. Nulla di male difendere i piccoli, però facciamo una cosa, c'è il metodo, la pubblicità, poi prima di arrivare alla borsa abbiamo preparato una scheda con i dettagli di questa legge in modo da ricordare quello che prevede, quindi la difesa di chi produce buona parte della produzione in Italia, e invece l'effetto boomerang che può avere sui grandi gruppi che da sempre hanno parti della produzione fuori. Se si pensa, lo dico senza polemica, di difendersi della concorrenza cinese obbligando chi non produce tutto in Italia a scrivere Made in Italy, secondo me siamo sulla cattiva strada, ma questo so che fa arrabbiare molti di voi, ma non cambio idea. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, pubblicità, poi una piccola scheda su questa legge su Made in Italy e poi la borsa che ha chiuso comunque in ribasso dello 0,5%. Miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione le CIR più 2,5%, poi Telecom più 1,6% come ansaldo, Luxottica più 1,3%, peggior titolo Tenaris meno 1,90%, Enel meno 1,80%, ST Microelectronics meno 1,2%, Mondadori meno 1,1%, come Mediolanum e in pregilo è anche Saip e Prismian. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo adesso ai mercati, però la legge su Made in Italy. Io so Made in Italy, so che su questo ci sono opinioni diametralmente opposte e capisco benissimo le esigenze dei piccoli produttori artigiani nel settore tessile, calzature e anche mobilio, in cui dicono, ma insomma, se io faccio tre parti della produzione su quattro qui sono più Made in Italy di chi ne fa solo una, magari solo il design, la concezione, poi l'impacchettamento. Siamo d'accordo, però in un mondo globalizzato, obiettivamente, ha senso che i gruppi cinesi possano venire in Italia a fare le ultime due fasi, magari quelle nemmeno così importanti, e scrivere Made in Italy? Chiedo, perché questo vale per gli italiani, ma anche per gli stranieri che volessero venire, per esempio, a fare il confezionamento qui. Faccio un esempio. Allora, quello è Made in Italy, anche se la manodopera principale, le due fasi principali restano in Cina e in India, non mi sembra. Soprattutto mi sembra che si stia creando una grande confusione con questa legge. Ancora, alcuni di voi dicono, ma insomma, perché bisogna difendere i grandi gruppi che usano il Made in Italy anche se producono buona parte all'estero? Perché l'ideazione è italiana e perché molti dipendenti sono in Italia. Se poi, ripeto, si vuole competere sulla parte di manifattura dura e pura, cioè il laboratorio artigiano del tessile pratese piuttosto che di altre zone, piuttosto che le concerie di Vicenza, secondo me è un errore strategico. Con quella roba lì non si compete con la Cina, vinceranno sempre e comunque i cinesi, a meno che non parliamo di produzioni così di nicchia e di a tale valore aggiunto che, per carità, lì allora siamo imbattibili, ma siccome non tutti possono fare il lusso, lì bisognerà inventarsi qualcos'altro. Non si può continuare a fare i maglioni senza un livello, diciamo, di fascia alta e chiedere che si possa mettere Made in Italy in questo modo, immaginando che bloccheremo l'invasione di maglioni cinesi. È una pia illusione. So benissimo che è caldeggiata da moltissimi piccoli, e so benissimo che c'è un partito che su questo ne ha fatto un cavolo di battaglia, l'abbiamo già detto, e la Lega è assolutamente legittimo. Tutte le opinioni. Criticavamo la Lega quando voleva i dazi contro i prodotti cinesi, o voleva l'espulsione, o diceva che bisogna tornare alla lira. Non vedo perché non si possa criticare un partito politico se prende una posizione di carattere economico. Comunque, vediamo che cosa prevede questo testo, ossia l'obbligo di etichettatura per i prodotti destinati alla vendita nei settori tessile, pelletterie, calzaturiero e anche l'arredo. Multe salate per chi non rispetta le regole. La scheda. Approvata con il voto sia della maggioranza che dell'opposizione, la legge sulla tutela del Made in Italy prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti del tessile, abbigliamento, calzaturiero e arredamento. Per ottenere l'etichetta Made in Italy è richiesto che il prodotto sia realizzato prevalentemente nel nostro paese, ossia che almeno due fasi della lavorazione avvengano in Italia. Le fasi sono indicate esplicitamente settore per settore. Nel caso del tessile sono ad esempio filatura, tessitura, nobilitazione e confezione. Un aspetto che favorisce le imprese che non hanno delocalizzato la produzione all'estero, ma mantengono ancora parte della produzione sul territorio nazionale. L'entrata in vigore delle nuove regole è fissata per il prossimo 1 ottobre. A partire da questa data, il mancato rispetto delle regole comporterà sanzioni pecuniarie da 10 a 70 mila euro e sanzioni penali in caso di violazioni ripetute. La legge dovrà prima passare al vaglio della Commissione europea, che ha competenza in materia di tutela delle produzioni e che attualmente prevede regole meno severe. Non è però escluso che da qui a ottobre Bruxelles approvi nuove misure in sintonia con la nuova legge italiana. Questa è la legge, oggi e anche comunque commenti che sono arrivati, il vice ministro Urso ha detto che alla delega al commercio con l'estero della Camera comunque è arrivato un forte richiamo all'Europa affinché finalmente agisca in questo campo, a tutela del Made in Italy. Ancora la Confindustria ha detto che è importante che vi sia una notifica dell'Unione Europea, cioè che l'Unione Europea venga a dire se questa norma poi può essere applicata, perché sono norme comunitarie. Contenti i calzaturieri, contenta la Confartigianato, rispettiamo tutte le posizioni. Faccio solo notare che se un indiano, un cinese o anche un tedesco o chi volete voi o un rumeno fa la filatura, la tessitura a casa sua e poi viene qui a fare semplicemente la nobilitazione del capo e il confezionamento, può scrivere Made in Italy anche se la filatura è fatta in Cina, la tessitura è fatta in Cina o in Romania, dove volete voi. Mentre se un italiano che ha sviluppato il concetto, il know-how, il design del bene, poi lo fa filare e fare tessitura in Romania e magari anche in imitazione, poi lo porta qui, lo confeziona, quello non può essere Made in Italy. Abbiamo già ricevuto delle segnalazioni di casi di imprenditori nel settore, per esempio, del mobile, dei divani per essere più specifici, lo ricordavamo, che avendo alcuni pezzi, per esempio l'assemblaggio della gomma piuma, che arriva dall'estero, hanno dovuto scrivere parzialmente fatto in Italia ai fornitori degli Emirati Arabi, a cui sempre vendevano questi mobili, invece che poter scrivere Made in Italy. Evidentemente va bene così. Le informazioni sul traffico, poi la borsa. Di nuovo in diretta per parlare adesso di borsa, un'ultima risposta al tema dei Made in Italy, tanto ce lo porteremo avanti anche nelle prossime settimane. Allora, molti di voi scrivono al 349-238-6666, ma insomma questa è una legge che vuole limitare o rendere più sconveniente la delocalizzazione o internazionalizzazione, cioè andare a produrre parti del bene all'estero. Io dico una cosa, ma siamo sicuri che adesso le imprese, le grandi imprese, perché poi chi fa questo sono grandi imprese che hanno marchi internazionali, che devono produrre su vari mercati, vendere su vari mercati, smetteranno di andare in Cina dove il costo della manodopera è di un 15esimo, un 25esimo rispetto a quello europeo, o in Romania dove è più o meno un quarto, un terzo, solo per il Made in Italy? Secondo me no, anche perché i grandi marchi tanto vendono sulla base del marchio. Chi la prenderà, diciamo, in tasca in questa vicenda saranno i medi piccoli medi. I piccoli potranno dire: vabbè, adesso è fatto Made in Italy, tanto se costa il triplo o la qualità è molto più alta o non lo vendi comunque. I marchi importanti, vedo che molti di voi citano marchi storici del Made in Italy, perfetto, continueranno a vendere, tanto uno compra il marchio, la fetta di mezzo secondo me soffrirà e non mi sembra un gran risultato. Comunque adesso basta la borsa. Allora, meno 0,5%, i casi di oggi meno eclatanti rispetto a ieri alle vicende Unicredit, di cui ci occuperemo dopo nella seconda ora del programma. CIR più 2,5%, Telecom più 1,6% come Ansaldo, l'1,3% il guadagno di Luxottica, l'1,1% Fondiaria, l'1,1% anche il Banco Popolare, più 0,90% Exor, più 0,70% Unipol. Tenaris la peggiore, meno 1,90%, Enel meno 1,90%, ST Microelectronics meno 1,2%, Mondadori meno 1,1% come Mediolanum, Impregilo meno 1,1% come Saipem, l'1% lo perde Prismian, lo 0,80% Parmalat, Unicredit e Finmeccanica come Geox ed Eni. euro su dollaro, quota 1,3612. E allora, per quello che riguarda i mercati, Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore. Buonasera, Eleonora. Buonasera a tutti. Lasciando stare la vicenda, vabbè, generali parleremo dopo, ma oggi poco mossa, meno 0,6%, diciamo, reagisce sui conti soprattutto. Esatto, oggi ci sono stati i conti, comunque continua a pesare anche il fatto che Unicredit ieri abbia venduto sul mercato e conseguentemente appunto questo ha un po' indebolito le azioni. I conti peraltro sono stati chiusi in rialzo con un utile che è salito di oltre il 50%, un utile 2009. Ancora per quello che riguarda i titoli Enel, adesso parleremo di conti Enel, meno 1,85%. Deluso da che cosa il mercato? Perché i conti, abbiamo visto l'utile in aumento, però. Sì, l'utile è in aumento. D'altra parte diciamo che sul mercato c'è chi aveva scommesso sul fatto che il CDA proponesse un dividendo più generoso rispetto a quello che effettivamente è stato proposto, attorno a di 0,25 euro per azione. Quindi c'è chi un po' ha preso profitto, si trattava di investitori che avevano scommesso appunto su una cedola più consistente. I migliori, sempre tra quelli più grossi, CIR più 2,5%, Telecom più 1,6%, ebbene anche il Banco Popolare migliore dei bancari è più 1,1%. Allora direi CIR, Telecom e Banco Popolare. Sì, CIR continua a correre dal 25 febbraio che è inanellato un rialzo dietro l'altro e a questo punto i guadagni dal 25 febbraio si attestano al 15% circa. La società sta beneficiando del fatto che sta preparando la quotazione della controllata COS, società attiva nel settore sanitario, e gli esperti valutano che possa valere attorno ai 250 milioni di euro, comunque per appunto un processo di quotazione finirebbe per valorizzare questo asset adesso in pancia a CIR. Per quanto riguarda Telecom invece i titoli si sono riscattati, stanno comunque poco sopra la soglia di un euro, inizia un po' il conto alla rovescia per il consiglio di amministrazione che si terrà la prossima settimana, esattamente il 25 marzo, consiglio che è stato posticipato di un mese a seguito, ricordiamo, delle vicende giudiziarie che hanno colpito la controllata di Telecom Sparkle, vicende che praticamente avevano imposto il fatto che non potessero essere pubblicati per intero tutti i conti del bilancio 2009 e non fossero per questo date anche le indicazioni sul business plan. Tutto dovrebbe essere rimandato appunto alla prossima settimana e l'attesa fa bene evidentemente alle quotazioni della società. Poi c'è il Banco Popolare che si è distinto sin da questa mattina, tra l'altro in un comparto bancario che invece ha registrato un andamento abbastanza contrastato. Sì. I titoli hanno fatto, come hai detto tu, più 1%, diciamo a riaccendere un po' i riflettori sulla banca veronese è stato il fatto che il Messaggero di quest'oggi ha scritto che è in arrivo appunto una offerta per il 51% di Caripe che adesso è controllata dal Banco Popolare. Inoltre l'offerta sarebbe la cassa di Teramo e pare che appunto la Caripe, cioè Cassa di Risparmio di Pescara, sia valorizzata attorno a 200 milioni e per la quota del 51% del Banco Popolare Tercas sarebbe disposta a offrire, a mettere sul piatto circa sì. 102 milioni. Sì. Allora, volevate sapere anche di altri bancari, Unicredit ha perso lo 0,80%, giornata appunto contrastata, Generali meno 0,6 l'abbiamo detto, Mediobanca meno 0,3, Popolare di Milano meno 0,3 anch'essa, Intesa meno 0,17%. Confermo a chi ce lo chiede al 349-238-6666 che i 25 centesimi sono il dividendo dell'intero anno di Enel, 10 centesimi li ha già dati di acconto. Poligrafici Printing continua. Più 10%, realizzi invece su altri titoli oggi, però PMS per esempio dopo la grossa corsa del debutto meno 5,6, Poltrona Frau meno 4%, Poligrafici continuano a crescere? Sì, in tre settori vedute, i titoli poligrafici printing hanno messo a punto un guadagno del 45% circa. Mm-hmm. Ricordiamo che Poligrafici Printing è una società del gruppo Morris, il gruppo editoriale, infatti attiva anche nella proprio pubblicazione, nella stampa di tutti i quotidiani del gruppo Morris, oltre però anche alla stampa di altre free press, documenti e via dicendo. Grazie, grazie Donna Michele di Radio Cori, il Sole 24 Ore. E parleremo di finanza anche nella seconda ora, del grande scacchiere delle prossime settimane che si snoda tutto tra Milano e Trieste. Qualche risposta ancora su Made in Italy, perché vedo che il tema giustamente sta nella pancia delle persone. Ci mancherebbe. Allora, alcuni precisano che per leggi anche europee è il made in è obbligatorio solo per quando il capo va fuori dall'Europa, e il made in dovrebbe, secondo anche normativa europea, indicare il paese dove la merce subisce la lavorazione e la trasformazione più importante, per cui nell'abbigliamento può essere il confezionamento, può essere, come fanno notare alcuni, la parte della nobilitazione, cioè tintura e finissaggio del tessuto. Cioè, perché andare a imbrigliarsi? Per cui se tu fai due cose, il confezionamento oppure fai solo una, la tintura e finissaggio, non puoi più scrivere made in, perché la lana non l'hai messa assieme in Cina o l'hai cucita in Cina. Io la trovo una cosa assurda. Alcuni scrivono: beh, ma è importante sapere da dove vengono i prodotti che compriamo. Ma perché? Qui non stiamo ragionando del settore agroalimentare, dove la tracciabilità è elemento anche di salute, l'abbiamo spiegato in quella puntata. Stiamo ragionando semplicemente di un pullover, di una giacca, di un paio di calzini, di una t-shirt. Allora è così importante sapere se due parti di lavorazione sono state fatte in Cina? Se il design è italiano, perché non lo puoi scrivere se per caso lo fai in Romania? E poi va bene, c'è chi scrive: per salvare Fiat come al solito, lei ha preso gli ordini di scuderia, le sue non sono opinioni ma veri ordini di scuderia, lei non è un giornalista ma un servo, lei non ha un datore di lavoro, lei ha un padrone, made in Fiat. Sarà tutto vero, faccio notare che questa legge non riguarda settore auto, riguarda abbigliamento, calzature, tessile e mobilio, e mi sembra che roba di K non faccia più parte del gruppo Fiat, il GR, e poi Unicredito Generali e il Risico Bancario Finanziario. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla legge sul Made in Italy. Allora, a questo punto rifaremo una puntata, l'abbiamo fatta la settimana scorsa quando è passata al Senato, adesso è passata anche alla Camera. Ripeto, nessuna la verità rivelata, però attenzione, ci sembra una complicazione inutile andare a limitare quanti passaggi, tanto la legge non dice che deve essere tutto fatto in Italia. Ha ragione paradossalmente chi scrive al 349-238-6666: dovrebbe essere tutto fatto in Italia. Avrebbe avuto forse più senso, ok, scrivi Made in Italy, se veramente tutti i passaggi sono fatti in Italia. Quando inizi a distinguere 2 su 4, secondo me crei molta confusione, permetti a chi produce la parte importante fuori di venire qua a fare una parte minore e scrivere Made in Italy, impedisci a chi fa una parte importante qua e altre lavorazioni meno importanti fuori di scrivere Made in Italy, pur essendo italiano, e vale solo per questi settori. Molti di voi propongono altre soluzioni, si poteva scrivere designed in Italy e produced per esempio in Cina, va bene, si possono individuare tante soluzioni. Io dico solo: non è da lì che arriva la tutela e la difesa della manifattura italiana, arriva da un ripensamento del modello produttivo, ne abbiamo parlato decine di volte. Non si può pensare che mettendo un marchio, un dazio, si blocchi, diciamo, la globalizzazione dei prodotti e delle merci. Comunque, su questo sappiamo che ci sono parecchie resistenze e parecchie persone che per fortuna non la pensano come noi. Le notizie che arrivano dall'America e anche i conti dell'Enel. Deficit corrente trimestrale che sale a 115 miliardi di euro negli Stati Uniti, migliore delle stime degli analisti che si attendevano un deficit a 119 miliardi di rosso. È buono il dato dell'indice di Filadelfia, quello che dà insomma il termometro dell'attività manifatturiera in America, è salito a 19 punti. Bene anche il superindice economico americano, in linea con le previsioni, comunque sale dello 0,1%. Calano, ma meno delle attese, le richieste di sussidio di disoccupazione a 457.000 unità. E poi i conti del gruppo Benetton, ha diffuso i dati oggi, avete ragione, ha chiuso il 2009 con un utile netto a 122 milioni di euro, meno 21,8% rispetto al 2008, il fatturato di gruppo, quindi consolidato, è a 2 miliardi di euro contro i 2 miliardi e 128 milioni del 2008, un calo di quasi 4%. E poi il dividendo a 23 centesimi di euro contro i 28 centesimi dell'anno scorso. Oggi conti anche di Enel, seconda azienda elettrica europea, dopo EDF, è presente in 23 paesi e controllata al 31% dal Ministero dell'Economia, capitalizza 35 miliardi di euro e nel 2007, lo ricorderete, Enel ha acquisito il gruppo Endesa, un'operazione da 40 miliardi, è l'Enel spagnola, da 40 miliardi di euro, che ha causato un aumento del debito attualmente a 51 miliardi di euro, ed ecco perché è stato varato un aumento di capitale, lo ricorderete anche questo, lo scorso giugno, pari a 8 miliardi di euro. I conti che non sono piaciuti così tanto alla borsa, visto che il titolo ha perso l'1,85%, non è piaciuto il dividendo a 25 centesimi di euro per azione, di cui 10 centesimi già corrisposti, l'utile netto del gruppo comunque è cresciuto di quasi il 2%, 5 miliardi 395 milioni di euro, e sono state annunciate dismissioni, cessioni per circa 7 miliardi di euro quest'anno. La nostra Valentina Furlanetto era a Londra a seguire la presentazione dei dati 2009 di Enel e ne ha parlato con l'amministratore delegato Fulvio Conti, chiedendogli innanzitutto una previsione sul bilancio diffuso oggi. Prevedo sperabilmente una buona accoglienza da parte dei mercati di un risultato eccezionale come quello del 2009, ma soprattutto la possibilità di guardare gli anni a venire con fiducia ed ottimismo sulla nostra capacità di essere tra i più produttivi e tra i più profittevoli operatori nel settore energetico al mondo. Per quanto riguarda la quotazione di Enel Green Power, ci può dare qualche data più precisa e quanto verrà collocato sul mercato? Abbiamo finito di mettere insieme tutti i vari asset che abbiamo nel mondo, abbiamo annunciato la possibilità di mettere insieme gli asset spagnoli dentro la grande casa Enel Green Power, questo ci dà ulteriori volumi e crescita disponibile per il prossimo futuro. A questo punto, avendo realizzato tutta la struttura societaria della nostra attività dei rinnovabili, possiamo iniziare il percorso per una quotazione della società. Pensiamo di poter presentare il primo filing alle autorità di borsa, Milano e possibilmente Madrid, entro il mese di aprile, da lì scegliere noi il momento giusto, che può essere o giugno o ottobre. Che tipo di tecnologia? Tutte le tecnologie, dalla geotermia e l'idroelettrico. Abbiamo la tecnologia del fotovoltaico, la tecnologia del solare ad alta concentrazione, e evidentemente anche quella eolica, e inoltre stiamo studiando formule ibride di produzione di energia elettrica utilizzando il fotovoltaico unito al processo di elettrolisi che genera idrogeno. Inoltre stiamo sperimentando il solare ad altissima concentrazione, c'è un prototipo che a maggio verrà inaugurato in Sicilia, che produce energia anche di notte utilizzando i raggi del sole. Parlando del nucleare, il ministro per lo sviluppo economico Scajola ha detto che ci sono le condizioni per avviare la costruzione della prima centrale entro il 2013. L'Enel a questo punto in che maniera sarà impegnata, e c'è già una scelta per un primo sito? Dobbiamo aspettare evidentemente che si completino tutti i provvedimenti di legge e i decreti ministeriali che sono necessari per affrontare seriamente il problema del nucleare in maniera ingegneristica e scientifica, senza nessuna preclusione. Il nucleare, come ben sappiamo, è una tecnologia che offre notevolissimi vantaggi, innanzitutto è stabilmente ancorata ad un costo più basso, come dimostrano tanti impianti nucleari che già oggi forniscono energia al nostro paese. Inconsapevolmente noi siamo già nuclearisti, perché importiamo il 17-18% dell'energia nel nostro paese da centrali nucleari che sono ai confini del nostro paese, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia. Non solo quindi è economicamente conveniente produrre energia nucleare, ma credo anche assolutamente sicura e stabilmente disponibile per ridurre ulteriormente le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. È una parte importante della strategia di crescita di un paese, quella di recuperare questa filiera tecnologica che dà in tutti i paesi in cui viene applicata lavoro a tanti ingegneri, lavoro a, evidentemente a tanti tecnici, una filiera tecnologica che può dare impulso ad un'economia italiana che ha bisogno di crescere e che alla fine produce il risultato di abbassare il costo della bolletta per tutti i nostri clienti. Quindi non c'è ragione per non andare avanti con speditezza e con determinazione su questo progetto. Un'ultima domanda sulla situazione finanziaria. Avete avuto questo grande successo dell'emissione del bond, pensate a una nuova emissione? E poi, per quanto riguarda, prima citava delle possibili dismissioni. Certamente abbiamo avuto notevoli successi ultimamente, ma perché pensiamo, forse immodestamente ce li meritiamo. Enel è un brand riconosciuto da tanti italiani, è un'azienda solida, performante, è un porto sicuro per tutti gli investitori, offre buoni rendimenti e dà la garanzia di un'azienda che produce risultati sempre crescenti, anche in condizioni difficili come quella del 2009, la dimostrazione è evidente, e quindi attrae l'interesse degli investitori. Noi pensiamo di aver fatto nella politica di rifinanziamento un'arma in più per utilizzare al meglio la leva finanziaria. Oggi abbiamo esteso in maniera significativa la durata media del nostro debito, siamo e continuiamo ad essere un'azienda ben ritenuta dalle società di rating, le agenzie di rating che ci considerano A e che pensiamo potranno confermare anche un miglioramento significativo nel corso del nostro piano, di questo nostro rating, ma non abbiamo ancora bisogno di ricorrere ad ulteriori emissioni. Certamente nel corso dell'anno invece faremo delle operazioni importanti, come il collocamento di una quota della nostra Enel Green Power e alcune dismissioni di asset che non sono più strategici. Così il numero uno di Enel, Fulvio Conti, intervistato a Londra dalla nostra Valentina Furlanetto. Poi della reazione del mercato abbiamo visto, non ha apprezzato il dividendo, soprattutto meno 1,85% l'Enel oggi in borsa. Prossimo tema, le generali, Unicredito, la banca unica, insomma tutto quello di cui avete letto come analisi anche nei giornali. Ringrazio quindi per averci raggiunto in studio il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Un minuto di pazienza, le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia. Allora, Alessandro Platerotti, abbiamo visto un po' di tutto in questi giorni, lasciando stare poi i conti dei generali diffusi ieri, oggi le parole più che positive di Perissinotto, uno dei due AD, che ha detto orgogliosi dei risultati raggiunti, 1,3 miliardi l'utile più 52%, dividendo a 35 centesimi di euro. Ma insomma, prima domanda, Unicredito esce dalla sua quota che aveva in generale il 2,8%, nel frattempo si continua a leggere, a scrivere di questo atteso vertice della generale del 5-6 aprile in un nuovo consiglio di amministrazione, e si continua a citare un eventuale asse Mediobanca Generali. Come si tengono assieme le due cose, l'uscita di Unicredito e Mediobanca Generali? Sì, effettivamente a volte la finanza sembra molto distante dai problemi della gente allo sportello, però in realtà quello che sta succedendo è frutto di quel riassetto del mondo finanziario, bancario e assicurativo che c'è stato negli ultimi 4-5 anni. Quando Unicredito acquistò Capitalia, l'antitrust, per Alessandro Profumo, prese degli impegni precisi con l'antitrust a cedere quella quota, perché si veniva a prefigurare un legame, un intreccio fra Unicredito, che era azionista di, che è azionista di Mediobanca ed è azionista di Generali attraverso la quota rilevata anche da Capitalia, per cui non si poteva fare sotto il profilo normativo. Quindi Unicredito avrebbe dovuto già vendere quella quota tempo fa, si parla già di un anno fa, non l'ha fatto, ha avuto una proroga. Avrebbe potuto aspettare ancora del tempo. Perché l'ha fatto? L'ha fatto perché a questo punto, nella situazione che si è venuta a prefigurare, soprattutto di pressione dei soci sulla banca e sul suo amministratore legato, ovvero Alessandro Profumo, ha preferito rompere quel legame, quel cordone ombelicale che ancora c'era fra l'Unicredito e le Generali, vendendo a un azionista. Certo, la scelta ha delle ripercussioni sotto il profilo della governance societaria, anche perché finché quella quota di Generali rimaneva in possesso di Unicredito era priva di diritti di voto, cioè in sede di consiglio, in sede di assemblea non poteva votare quelli, soprattutto in sede di assemblea non potevano avere il diritto di voto. Vendendola ha ridato il diritto di voto a quelle azioni, e questo non è una cosa indifferente, perché il proprietario, ovvero la CRT, che è uno degli azionisti importanti di Unicredito, a questo punto diventa azionista anche delle Generali e potrà utilizzare quelle azioni per scegliere il prossimo consiglio di amministrazione. Quindi questo è un po' lo scenario che sta ruotando la Cassa di Risparmio di Torino, la parte, diciamo, torinese della banca. E questo è il primo aspetto: era obbligata, ma non è ininfluente quello che ha fatto, perché appunto sdogana la... ha voluto rompere uno degli elementi che era di scontro e soprattutto di tensione all'interno della compagine dei soci di Unicredito, dando questa quota, traduco io, ai torinesi, quindi mettendo tra virgolette a tacere un elemento di tensione, visto che quella quota, quel 2,8%, adesso ha diritti di voto, quindi è operativa e quindi si esprimerà un nuovo consiglio presto. Perché si continua a citare il rapporto Mediobanca Generali, oltre che il fatto che Mediobanca è, come tu ricordavi, l'8,7% c'era Unicredito, però Mediobanca a sua volta in portafoglio ha il 14% delle, esatto, Generali, e Generali è il primo azionista, ma non c'è solo, diciamo, questo forse. Certo, cioè, dunque, quindi abbiamo detto comunque asse Mediobanca Generali significa che Mediobanca è la controllante delle Generali, quindi la controlla. Esprimerà quindi la lista di maggioranza per il nuovo consiglio di amministrazione delle Generali. E perché si parla sempre di un rinnovo della presidenza? Questo è un tormentone tipico italiano. Non si... solo per l'età di Bernheim, con, esatto, tutto rispetto. Probabilmente Bernheim non sarà rinnovato, questo è quanto circolano negli ambienti finanziari milanesi e triestini, visto che le Generali sono di Trieste, ma soprattutto perché Generali è il vero grande salotto della finanza italiana e della finanza internazionale. Non dimentichiamoci che dentro le Generali ci sono figure di primo piano sia della Francia che della Spagna, pensiamo anche ai Botin del Banco Santander, quindi insomma è uno degli snodi importanti anche per le partecipazioni che ha in portafoglio, perché ricordiamo che Generali è il principale azionista di Telecom Italia e poi ha il 5% di Intesa San Paolo, il 2% di Mediobanca a sua volta, per è questo. Presente nelle grandi holding di partecipazione delle grandi famiglie di Benetton ad esempio, ma è presente anche nelle ma ecco, per dire una battuta poi passiamo all'ultimo, sì, aspetto, domanda che ho per te, che invece è quello che è successo dentro il gruppo Unicredito, sì. L'asse Mediobanca Generali è solo un asse, diciamo, di proporre, visto che tu sei il primo socio, la tua lista, o si può pensare, come alcuni ipotizzarono, a un asse più complessivo, anche di carattere, diciamo, di fare una fusione di carattere operativo? Su questo non mi sembra che ci siano mai state dichiarazioni di soci o di manager che hanno fatto pensare a una fusione fra queste due entità. Che il mercato creda che possa avvenire questo è un altro discorso, ed è vero, ma è anche vero che bisogna pensare nel lungo, nel medio periodo, non dico lungo perché ormai i tempi si stanno stringendo, a quelli che saranno i nuovi assetti del mercato finanziario europeo, quando entreranno in vigore i parametri di Basilea 3, ovvero dei parametri molto stringenti su quello che è l'attività dei conglomerati finanziari, delle banche, soprattutto del settore bancario. Anche Mediobanca dovrà fare i conti con un diverso assetto, quindi in prospettiva anche per Mediobanca si porrà il problema di come aumentare il suo funding, cioè la sua raccolta di denaro. Quindi, diciamo che la banca assurance piace molto al mercato, meno ai soci diciamo che sicuramente la banca assurance ha funzionato sotto certi aspetti, ha funzionato anche banca assurance, ricordiamo, e banca assicurazione, sì, messe insieme in questo senso, e le Generali sono una società che va bene perché abbiamo visto i risultati, però certamente essendo uno snodo, un incrocio importante di finanza italiana e finanza internazionale, è naturalmente al centro delle grandi attenzioni dei gruppi finanziari. Ed è un, diciamo, delicato, è come muoversi in una cristalleria ogni volta, visto le varie partecipazioni che loro hanno e i soci che vi partecipano. Il ruolo di Geronzi in tutto questo, che è attualmente presidente di Mediobanca? Ma il ruolo di Geronzi sicuramente, come presidente di Mediobanca, ha un ruolo importante adesso nella definizione degli assetti e di quelli che saranno gli schieramenti che vedremo all'Assemblea delle Generali. Ma certamente Geronzi ha sempre detto, non ha mai detto di voler andare alle Generali, anzi ha detto che questa non è una scelta che spetta a lui, ma comunque spetterebbe ai soci. E il vero è che probabilmente se ci fosse un grande consenso, l'unanimità di tutti i soci sulla scelta di Geronzi alle Generali, è presumibile che Geronzi, certo, possa accettare. Ultima domanda, abbiamo veramente 30 secondi. Quello che è successo in Unicredito, cioè le tensioni sul progetto di banca unica che voleva accorpare Cassa di Risparmio di Torino Banco di Roma e altri. Il motivo qual è? Cioè che si andavano a violare le autonomie regionali dei vari soci che compongono Unicredit? Diciamo così, di fatto già Profumo oggi è, un po', è stato finora il leader incontrastato del gruppo, in tutte, anche nel bene, nella fase di grande crescita, anche nel male, nella fase delle ricapitalizzazioni che sono costate molto ai suoi azionisti. Nel progetto di Profumo sarebbero scomparirebbero tutti i consigli di amministrazione locali, diciamo così, territoriali, delle banche che facciano parte del gruppo. Questo sicuramente è non solo una riduzione di poltrone, che quindi non è mai facile da gestire, ma anche un indebolimento di quella presa locale su un gruppo come Unicredito. Quale può essere la soluzione? La soluzione del direttore generale, che si sta chiedendo a questo punto ad Unicredito, cioè nominare un direttore generale competente e titolare di quelle che sono le scelte su base territoriale, quindi per l'Italia. Questa potrebbe essere una soluzione di compromesso che, quando sarà poi il momento del consiglio straordinario, sicuramente entrerà in gioco. Quindi verso metà aprile. Grazie a Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi auguro buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. L'America continua a viaggiare leggermente positiva, più 0,3%. Radio 24, la passione si sente.